Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola La sfuriata di Beth ed è il nuovo romanzo di Christian Frascella pubblicato da Einaudi. Dopo Mia sorella è una foca monaca e Sette piccoli sospetti, Frascella ci propone ancora una storia di adolescenti. Ma sentiamo chi è Beth. Beth è una ragazza di 17 anni che vive a Torino, la storia è ambientata nel 2010. Lei proviene da una famiglia un po' problematica, perché la sua famiglia originaria è stata distrutta da un lutto di cui lei si sente responsabile. Vive con la madre e il nuovo compagno di lei, e mentre il padre si è trasferito a Roma dopo il lutto, di cui non accenniamo che è meglio, si è trasferito a Roma e con la promessa che sarebbe tornato a Torino nel giro di poco tempo. Frequenta il terzo anno del liceo per la seconda volta perché è stata bocciata ed è molto arrabbiata, è offesa per come la scuola viene trattata sia dal governo che da chi la scuola la deve far amare, ai giovani, quindi ai professori. È offesa perché, come ti dicevo, si sente in colpa per il lutto che ha disastrato la sua famiglia. È arrabbiata per la condizione della donna nell'Italia del 2010 e in tutto questo cerca di cambiare le cose, ossia c'è la madre che rischia il posto di lavoro e lei si adopera per organizzare uno sciopero nella fabbrica dove lei lavora come impiegata. Quindi è una ragazza piuttosto attiva, cioè cerca di mettere in pratica la sua rabbia. Esatto, incontra anche una ragazza che si chiama Viola, che ha 22 anni e che è incinta, e si preoccupa a Beth di come mai sia da sola e non nessuno si occupi di lei in quel momento. In ogni caso sì, è arrabbiata un po' con tutto, fino a che lei attiva, diciamo, questa sua rabbia, questo cumulo di cose che tenta di fare, ossia rimettere insieme Viola col suo fidanzato, organizzare lo sciopero per la madre che poi non andrà a buon fine, fino ad incatenarsi nell'ufficio del preside a scuola. Tutto ciò che fa lo fa in maniera goffa e a volte non lo fa col cuore, lo fa con passione, però non tutto ciò che vuole si avvera. Quindi c'è il mondo delle proteste studentesche in questo libro? Sì, guarda, io l'avevo cominciato nel giugno del 2010 con già in mente di raccontare il mondo della scuola. E poi nel dicembre del 2010, quando mi ero fermato, ero a metà della prima stesura, mi sono reso conto che stavano accadendo tutte le cose che in qualche modo già a giugno preconizzavo, ossia appunto la protesta studentesca contro la riforma universitaria e anche il mondo del lavoro. C'era stato in quel periodo, alcuni operai erano saliti sulle gru perché erano considerati clandestini, nel Bresciano credo sia accaduto, e avevano ricevuto appunto il foglio di espulsione. E quando mi sono ritrovato con metà materiale narrativo già pronto, in più a dicembre sono accadute queste cose, ho capito che la storia avrei dovuto inserirla in un arco di tempo di 10 giorni, in cui è stato veramente, non so se la gente se ne è resa conto, ma sono stati 10 giorni molto caldi per il paese, perché si votava tra l'altro anche la fiducia al governo in quei giorni. È vero che hai fatto leggere la prima stesura di questo romanzo a dei ragazzi di liceo proprio? Esatto, sia al liceo che un istituto professionale, due scuole a Torino, il Gioberti e il Giulio, hanno accettato due classi di leggere il manoscritto. Perché? Perché io raccontavo la storia con i pochi riferimenti che ho attualmente e coi ricordi che ormai risalgono a 20 anni fa. E quindi mi sono reso conto che probabilmente ci potevano essere grossi errori per come raccontavo la scuola al giorno d'oggi. Quindi ho detto, onde evitare, vorrei confrontarmi con i ragazzi che la scuola la vivono, E lì è stata forse la scelta definitiva che mi ha portato a comprendere meglio il libro, perché sono entrato in queste classi dopo che i ragazzi avevano letto con entusiasmo il libro e sono nati dei dialoghi tumultuosi su ciò che avevo scritto. Mi ero sbagliato su alcune cose, loro non è che hanno riscritto il libro, mi hanno dato degli ottimi consigli. Adesso la versione definitiva la devono ancora leggere e mi faranno sapere come è stato, come ho trattato la materia e se sono stato in grado di in qualche modo di riprodurre il loro mondo così per come me l'avevano raccontato. Su che cosa, per esempio, ti eri sbagliato? Ma io pensavo che indicassero nella classe, cioè nei professori, quindi nel gruppo dei professori, i loro nemici. Invece ti trovi a confrontarti, io non me l'aspettavo, con ragazzi preparatissimi che mi ricordo in particolare un ragazzo che mi disse no, guarda, io non ce l'ho con i professori, ce l'ho con il ministero. Quindi già a 17 anni, anzi aveva 16 anni, questo ragazzo mi disse questa cosa. Quindi da lì ho capito che non era più la solita cosa che insomma sono i professori quelli noiosi, è colpa loro, è colpa del programma, ma c'era una visione più ampia, avevo una visione più ampia che io a 16 anni sinceramente non avevo. A proposito dei tuoi 16 anni, come ricordi quel periodo scolastico? Ma guarda, io ho ripetuto 4 volte il primo anno di superiori perché mi ero molto affezionato alle materie di quel primo anno. No, mi sembrava allora, quindi stiamo parlando del fine anni 80, inizio anni 90, che fossero più politicizzati di adesso. Adesso credo che vorrebbero solo che le cose funzionassero meglio, al di là del colore politico. Nel tuo primo libro, Mia sorella è una foca monaca, ma anche nel tuo secondo, I sette piccoli sospetti, parli di adolescenti. In quest'altro libro, La sfuriata di Beth, parli ancora del mondo degli adolescenti. Come mai questa scelta? Ma innanzitutto glielo dovevo, cioè avevo parlato di un ragazzo di 16 anni nel primo libro, di ragazzini di 12 anni nel secondo libro. E non avevo mai utilizzato una voce femminile. Ho pensato, ma chi è in questo momento storico che dovrebbe sentirsi più offeso e indignato, soprattutto in questo paese? E ho pensato una donna, e chi ancora più di lei? Una ragazza. E da lì c'erano alcuni temi che volevo sviluppare e la voce di Beth ha preso il sopravvento. Il motivo per cui io scriva sempre di adolescenti, non so se lo farò per sempre, però per questi primi 3 libri l'ho fatto, è che, non lo so, loro fanno parte della società, sono più spettatori che attori, cercano ancora di capire il mondo, hanno un bagaglio esistenziale ancora che non li mette ancora in condizione di capire tutto, e c'è quel senso di attesa, di quelle aspirazioni un po' vaghe che mi affascinano da un punto di vista narrativo, anche se per me è sempre difficile spiegare perché parlo di adolescenti, a dire il vero. Come ti sei sentito nei panni di Beth? Beh, è partita la sua voce, ecco, io più che la storia in sé, avevo dei temi, come ti dicevo, che mi rigiravano in testa, ma non la voce. Quando ho sentito, perché penso che gli scrittori sentano delle voci in qualche modo, quando ho sentito la voce di Beth, dalla prima frase ho cominciato a seguirla. Certo, all'inizio era una Beth un po' troppo testosteronica, per fortuna sono circondato in positivo da donne che mi hanno fatto capire alcuni errori marchiani che potevo aver commesso nel descrivere un personaggio femminile, vale a dire la mia compagna, poi la mia editor che è appunto Dalia Oggero, e quindi la voce è stata aiutata anche da questa fortunata presenza femminile intorno al romanzo. Ho letto in un'intervista che tu preferisci la parola narratore alla parola scrittore. Perché? Sarà un mio problema personale. Io considero gli scrittori come degli utilizzatori della parola in maniera anche filosofica. Secondo me lo scrittore vero che si confronta col suo tempo riesce anche a inserire qualcosa di profondamente filosofico nei suoi libri. Io invece mi sento più un testimone, non ho una filosofia sulla vita, quindi io racconto storie e secondo me la differenza è questa, io sono testimone, non interpreto il mio tempo, quindi sono un narratore di ciò che in qualche modo mi circonda. E questo era Christian Frascella, ora in libreria con La sfuriata di Betta. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.